La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, l'ora settimanale di cinema di Radio 24, e ancora buon Natale, anche se ci siamo appena sentiti poche ore fa qui su Radio 24 per la puntata speciale natalizia, ma insomma è ancora un po' Natale anche in questo weekend post natalizio. I film sono quelli ovviamente, ma ci sono delle pellicole che arrivano nelle sale proprio in questi giorni, addirittura in questa giornata. Sherlock Holmes per esempio ha scelto il giorno di Natale per arrivare dal pubblico italiano. Di tutti gli argomenti della trasmissione noi invece parliamo e riassumiamo il tutto nei titoli di testa. Non dice elementare Watson, non ha un buffo cappello e nemmeno la lente di ingrandimento. È lo Sherlock Holmes un po' bohemien di Robert Downey Jr. Due fratelli per una donna. Nelle sale, Brothers, dramma familiare sullo sfondo della guerra in Afghanistan, con Tobey Maguire. Storia di una donna che sapeva volare, ma il colossal Amelia, con Hilary Swank e Richard Gere, stenta a decollare. I pirati del 2010. Chi sono, cosa fanno e soprattutto come rompono i propri computer gli scaricatori incalliti, lo spiega una ricerca dell'Univideo. Ed eccoci qui a parlare della prima delle proposte della settimana, il nostro film della settimana. Prima però un preambolo, parliamo di Brothers, abbiamo scelto questo film di Gene Sheridan per aprire la trasmissione, ma come dicevo un preambolo, l'hanno fatto ancora, lo fanno sempre più spesso gli americani. Prendono un film recente, molto recente, che gli è piaciuto e anziché distribuire quel film lo rifanno. Stavolta è toccato a Brothers, lo inventò 5 anni fa, mica ere geologiche. Susan Bier, la più importante regista danese contemporanea, lo ha rifatto adesso, paro paro, l'irlandese Jim Sheridan, quello del mio piede sinistro e di Nel nome del padre. È una cosa alla quale non riesco ad abituarmi, mi è capitato già diverse volte di dirlo da queste frequenze. Mi si dirà Ulrich Thompson e Connie Nielsen fanno meno cassetta di Tobey Maguire e Natalie Portman. È vero, rispondo, ma così il cinema americano, anziché battezzare nuove stelle nel suo firmamento, come faceva per esempio negli anni 60, importando Fellini e compagnia, fagocita tutto. Cosa sarebbe successo? Provate a pensarci se Van Gogh fosse stato ritenuto un po' troppo europeo e le sue opere fossero state diffuse in copie più adatte all'estetica locale. Chissà. Fatto però appunto il dovuto preambolo, parliamo di questo Brothers che ambienta nella provincia americana ciò che la Bier ambientava in Danimarca. Sam Cahill, interpretato da Tobey Maguire, è un giovane ufficiale dei Marines, sposato con una splendida e giovane donna, Grace, che è il volto appunto di Natalie Portman, e padre di 2 bellissime bambine. Sam è un tipo meticoloso, ordinato, di poche parole, e sta per partire nuovamente alla volta dell'Afghanistan per la sua 4ª missione. La sua partenza coincide con l'uscita di prigione del fratello Tom, un bravissimo Jake Gyllenhaal. Tom è da sempre considerato il poco di buono, la pecora nera della famiglia, soprattutto da parte del padre Hank. Perché lo fai guidare me? Ma che vai dicendo? Avanti, bambine! Perché non mi dai le chiavi, papà? Come mai sei così responsabile tutto a un tratto? Lascia guidare Tom. Lascia guidare Tommy, ti do un consiglio. Perché non trovi un lavoro, guadagni qualcosa, compri una macchina e poi te ne vai dove ti pare e piace? Dammi le chiavi. Un giorno alla porta di Grace bussano 2 ufficiali dei Marines in alta uniforme. Non servono parole. Il volto di Grace è rigato dalle lacrime. Sam è missing in action. L'elicottero su cui viaggiava è stato abbattuto dai talebani. Senti, guarda, dilla tutto e facciamola finita, eh. Sam mi ha detto che potevo prendere la macchina quando volevo, Grace. Mi guardi con quell'aria incazzata. Sam è morto. È precipitato. Che stai dicendo? È morto, Tommy. Vieni. No, non mi fatti entrare, cazzo. Sono passato qui solo per... Perché l'hai lasciato andare laggiù, Tommy. Grace? Tommy! Per cosa adesso, eh? È proprio allora che Tom tira fuori gli aspetti migliori della sua personalità, diventando più che uno zio per le bambine e più che un cognato per Grace. Quando un giorno, alla stessa porta, della stessa casetta come tante, si presenta Sam, vivo e traumatizzato dai giorni di prigionia. Che cosa è successo tra te e Tommy? Ci siamo solo baciati. Mi mancavi. Credevo fossi morto. Non riuscivo ad alzarmi dal letto. È la verità. Lo sai. Adesso dimmi. Io credo che ti scopi Tommy. Fidatevi, non vi abbiamo svelato più del dovuto. Si potrebbe dire il bello deve ancora arrivare, ma di bello c'è poco nella storia. È molto avvincente, molto emotiva, ma insomma anche molto drammatica. Che Sam non sia davvero morto, tra l'altro lo si scopre pochi minuti dopo l'inizio del film, non è quello il mistero, non è quello il centro del film. Brothers vuole piuttosto riflettere sulle difficoltà del reinserimento dei reduci nella vita familiare e sociale, come fecero ai loro tempi e alle loro guerre il cacciatore o nato il 4 luglio. Sam, ad esempio, è soffocato dalla gelosia, è convinto che la moglie e il fratello, come avete sentito, abbiano una relazione che magari era anche cominciata ritenendolo morto. Sentiamo Toby Maguire. Dai soldati ci si aspetta che facciano il loro dovere. Tutti siamo loro grati e dobbiamo avere rispetto per quello che fanno. Allo stesso tempo, quando tornano a casa, hanno bisogno di più cure e attenzioni per ciò che hanno passato. Perché molti tornano con ferite che cambiano loro la vita, o disagi psicologici come disturbi post-traumatici da stress o cose del genere. Certamente io posso capire dalle ricerche che ho fatto e dalle cose che ho letto che le esperienze che vivono in guerra possono cambiare la loro visione del mondo e il loro modo di rapportarsi con gli altri. E una volta tornati a casa, è difficile per le altre persone comprenderli e capire il loro punto di vista. Così Toby Maguire, soprattutto però Brothers ci fa riflettere su quanto l'assenza modifichi le cose. I rapporti, gli amori, i legami familiari hanno bisogno di costanza e di dedizione. Se te ne vai, se non ci sei, qualcos'altro o qualcun altro prenderà il tuo posto. Il regista Gene Sheridan. Well, it's a family film, it's about a family drama. È un film sulla famiglia, su un dramma familiare. Situato sullo sfondo dell'Afghanistan, è proprio la storia di una famiglia divisa dalla guerra. Mi piace il fatto che avvenga qualcosa che va al di là della tragedia, al di là della normale comprensione che cambia la storia. Ero attratto dalla grandezza delle emozioni e dall'investigare i disturbi post-traumatici da stress e tutto quello che non viene detto sull'esercito. Abbiamo parlato di Brothers qui alla Rosa Purpurea. Andiamo adesso a vedere quelle che sono le classifiche, la classifica degli incassi al botteghino italiano nello scorso fine settimana, ovviamente viene da dire, dominato da Natalia Beverly Hills, che abbiamo presentato la puntata scorsa con Christian De Sica, qui ospite nostro in diretta, e al secondo posto Io e Marilyn, quindi Leonardo Pieraccioni, che era l'altro nostro ospite. Insomma, non era difficile fare il pronostico, forse non ci si aspettava una così ampia differenza fra i due film. 3 milioni e 400 mila euro di incasso per Natalia Beverly Hills al primo posto, meno della metà, 1 milione e 6 per Io e Marilyn con Pieraccioni. Ma insomma, le settimane sono ancora lunghe, le festività natalizie potranno portare molta gente a vedere questi film. Scivola al terzo posto Christmas Carol, che però ha raggiunto 11 milioni di incasso globale. Esordio al quarto posto per La principessa e Ranocchio, disneyano bidimensionale, animazione tradizionale vecchia maniera, 1 milione di euro incassati. Sottolineiamo anche che Cado dalle nubi di Checco Zalone è al quinto posto, ma veleggia verso i 12 milioni di incasso globale, una delle sorprese di questo periodo. E per il resto andiamo a sottolineare anche la presenza ancora nella top 10 di Il mio amico Eric di Ken Loach, ancora nelle sale cinematografiche italiane. A questo punto noi andiamo a sentire come vanno le cose sulle strade, fra poco torniamo alla Rosa Purpurea e parliamo di Sherlock Holmes. La Rosa Purpurea. Sei consapevole che questo è il primo ponte che unisce il braccio abilico con la sospensione? Che impero laborioso! In queste parole di Sherlock Holmes, pronunciate mentre ammira il Tower Bridge in costruzione insieme al fido dottor Watson, c'è tutta la passione dell'investigatore per la modernità. Ed è proprio un impero laborioso quello britannico, e la Londra del 1890 ne è l'epicentro, coi piedi radicati nella tradizione e le braccia protese verso il futuro. Partiamo da qui per raccontare una versione sicuramente moderna e alternativa di Sherlock Holmes, il mitico investigatore inventato da Sir Arthur Conan Doyle. Abbandonati il cappello da cacciatore di cervi, la lente di ingrandimento e senza mai umiliare il povero Watson definendo elementare anche il caso più intricato, Guy Ritchie reinventa uno Sherlock che sembra un po' Mick Jagger calato nella Londra vittoriana. Un bohemien un po' arruffato, che non si cura della propria immagine e vive nell'appartamento al numero 221B di Baker Street come un qualsiasi studente universitario in condivisione. Le sue giornate le passa svaccato sul divano a sperimentare nuovi intrugli chimici e a provarli sullo splendido bulldog di Watson. Non si era mai lamentato dei miei metodi. Non mi lamento mai. Mi lamento quando suona il violino alle 3 di notte, della sua scarsa igiene o dei suoi esperimenti sul mio cane. Ha ucciso il cane. Di nuovo. Finché non arriva la chiamata di Scotland Yard, che malvolentieri sopporta il suo talento, un talento assai diverso da quello dell'originale letterario, tanto lo Sherlock del film è metafisico, sensoriale, grande esperto di arti marziali, quanto quello dei libri è elegante, scientifico e un po' snob. Ho una richiesta. Devo vedere una persona. Sherlock Holmes. Io e lei siamo destinati a un viaggio che deformerà la trama stessa della natura. Lasci che la illumini. Domani il mondo che lei conosce svanirà. Ebbene, non c'è tempo da perdere, giusto? Succede però che un giorno, come avete sentito, il criminale da arginare diventa Lord Blackwood, che ha piani ben più ambiziosi di un semplice omicidio. Vuol dominare il mondo. Blackwood è geniale quanto Sherlock, ma assai più pericoloso. Viene arrestato e impiccato, ma sul patibolo professa la sua estraneità alla morte e rivela il suo progetto, risorgere, per prendere il controllo di una Londra spaventata e atterrita da quel che i giornali dicono di questa figura mefistofelica. Starà a Sherlock Holmes e naturalmente al dottor Watson provare a fermarlo. Fa una notevole differenza per me disporre di qualcuno su cui fare totale affidamento. È sempre un piacere, Watson. Me lo tolga dalla faccia. Non è sulla sua faccia, è nella mia mano. Tolga quello che ha in mano dalla mia faccia. Tubano in questo modo da ore. Watson, lei ha il grande dono del silenzio. Per questo è un compagno inestimabile. Girato in parte a Londra e in gran parte a Brooklyn, Sherlock Holmes è un film che convince per la freschezza, l'ironia e il ritmo. E il lievito per questa torta ben riuscita è il protagonista, Robert Downey Jr., ormai stabilmente, almeno nella mia classifica personale, fra i migliori 4-5 attori del mondo. I suoi sguardi, la sua sfrontatezza, la sua profondità dettano il clima del film. E siccome non esiste Sherlock senza Watson, ecco un Jude Law misurato, ordinato, che gli tiene testa, una superstar che sa fare la spalla. Nei panni di Irene Adler, principale figura femminile dei racconti di Conan Doyle, c'è invece Rachel McAdam. Forse si perde per strada un po' dell'eleganza altera del personaggio originale, in favore però di una rinfrescata alla figura dell'investigatore, certo più adatta al pubblico di oggi. Un film d'azione per famiglie, che nonostante gli ambienti e personaggi un po' underground che propone, non eccede mai nella volgarità verbale o nella violenza esibita. Ma ascoltiamo i protagonisti partendo dal regista Guy Ritchie, l'ex signor Madonna, che con ironia spiega perché ha accettato il progetto. I chose this really because I needed the job. In verità l'ho scelto perché avevo bisogno di un lavoro. A parte questo, volevo uscire dal circuito dei piccoli film indipendenti e questa mi sembrava una buona occasione per evitare di fare qualcosa di piccolo. Sono riuscito a mantenere l'identità inglese, ma al tempo stesso avevamo l'impatto e il budget dei film americani. E dulcis in fundo, il protagonista, Mr. Sherlock Holmes, Robert Downey Jr. Questa era l'idea di Holmes che aveva Guy Ritchie. Era veramente coraggioso e poteva anche andare male. Nel qual caso il resto del film avrebbe dovuto rinunciare a quell'idea del regista. Ma invece era letteralmente perfetta. Era la sua versione del film. Si trattava solo di fidarmi di lui e, come dire, trovare approvazione reciproca. Approval, so to speak. Abbiamo parlato di Sherlock Holmes qui alla Rosa Purpurea, adesso apriamo la prima finestra sul nostro game, il nostro gioco che vi permette ogni settimana di vincere splendidi film in DVD o Blu-ray, come sempre un film misterioso che noi centelliniamo nel corso della trasmissione e che voi dovete indovinare. Andiamo ad ascoltare la prima traccia. Essere un delinquente recidivo con un quoziente intellettivo da genio? Magari mi piace. Tuo padre è morto. Tu vuoi accontentarti di una vita ordinaria oppure vuoi aspirare a qualcosa di meglio? Avete già capito? Film recente, anche se appartenente a una grande famiglia. Per il momento mi fermo qui, La Rosa Purpurea, @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Più tardi ci saranno altre possibilità. E andiamo avanti perché in questo weekend natalizio, come dicevamo, sono arrivate nelle sale parecchi film nuovi. Quest'anno la volata di Natale è stata lanciata un po' tardi rispetto al solito ed arriva anche un colossal, anzi forse l'unico grande colossal sentimentale di questa campagna di Natale al cinema. Gli altri anni magari c'era qualche alternativa in più, il filmone americano insomma era anche altro. Adesso invece tutta questa attesa e tutto questo pubblico ovviamente concentrato sulla figura di Amelia Earhart, la grande aviatrice che è anche stato un simbolo dell'emancipazione della donna. È una nuova versione di questo personaggio al cinema, perché non più tardi di una decina d'anni fa era stata Jessica Lange a portarla sul grande schermo in un film che aveva avuto meno circolazione in Italia. Stavolta ci prova Hilary Swank con al suo fianco Richard Gere. Amelia, ce lo racconta Barbara Righini. Smetterà di fare viaggi a lungo raggio? Assolutamente no, finché avrò energia per farli. Sempre pronta per nuove imprese. Grazie ragazzi. Amelia è così, coraggiosa e determinata. Mira Nair questa volta ha scelto di raccontare la storia vera di Amelia Earhart, una delle prime celebrità americane, la prima donna ad aver attraversato l'Atlantico in solitaria. Anni 20 del secolo scorso, Amelia è una giovane donna che ha un sogno, diventare aviatrice e viaggiare. Per realizzarlo si allea con George Putnam, uno dei primi addetti alle pubbliche relazioni. Amelia è uno spirito libero, una donna che è decisa a rincorrere le sue aspirazioni, mette il volo davanti a tutto, anche davanti alla famiglia. Acconsente a sposare George, ma con il patto che ciò non intralci i suoi piani. La sua carriera, durata poco meno di un decennio, affascina i suoi ammiratori. L'aviatrice inanella una serie di successi fino al viaggio più temerario, il giro del mondo. Sono consapevole dei rischi, signori. Ho studiato la rotta. Tu che cosa suggerisci? Questa è l'isola di Howland. È a metà strada tra Honolulu e la Nuova Guinea. Non ci sono alture, non ci sono alberi, a malapena qualcuno sa o gli interessa che esista. È davvero piccolissima, un granello di sabbia sperduto in miglia e miglia d'acqua. Se dovessi mancare quest'isola, resteresti senza carburante con 2000 miglia davanti a te. Nair racconta una storia d'amore e un'avventura, cercando di coinvolgere lo spettatore, ma non riesce nel suo intento. La regista aderisce ai cliché del cinema sentimentale, adagiandosi su inquadrature scontate, sottolineando i momenti tragici o melodrammatici, con musiche che indicano esattamente a chi guarda la reazione che dovrebbe avere. L'adrenalina dell'avventura non passa e la dolcezza di una storia d'amore sincera non commuove. Per il ruolo di Amelia, la Nair sceglie Hilary Swank, straordinariamente somigliante alla vera Amelia. Nei panni di George c'è Richard Gere. Sentiamo che cosa ha dichiarato l'attrice a proposito della sua eroina. Ha veramente incoraggiato le donne a farsi una famiglia nel caso volessero. Nel caso avessero sogni, invece lei diceva: andate e rincorreteli, visitate il mondo, viaggiate. In questo film credo che questo si capisca bene. Si vede la sua vita amorosa, ma si vede anche come Amelia insegue i suoi sogni e quanti sacrifici faccia per realizzarli. Lei voleva volare. E sul suo compagno di set, Richard Gere, la Swank dice: lui è una persona molto ricca spiritualmente e non nasconde la sua sensibilità. È un uomo alla vecchia maniera e sono le stesse caratteristiche di George Putnam. Per me Richard è George. Sono una fan di Richard da sempre, da prima di diventare attrice professionista. Lavorare con lui quindi è stata un'opportunità magnifica. Mi ha lasciato molto. E questa era quindi Amelia Earhart, la grande aviatrice con il volto di Hilary Swank, raccontata da Barbara Righini. Ancora spazio per un altro film, cambiamo nuovamente genere, andiamo a completare il nostro menù di Natale con Piovono Polpette, animazione in 3D con tanto di occhialini, tratta da un famoso libro per bambini e con un clima un po' apocalittico si racconta di un cielo dal quale piovono appunto polpette. Chiara Pizzimenti. Mi chiamo Flint Lockwood e ho sempre cercato di inventare qualcosa di incredibile. Un'auto a volante! Come avrete capito dalle risate, Flint Lockwood non è proprio un inventore di successo. La macchina volante è solo uno dei tanti fiaschi della sua attività. Lui però non demorde. Perciò, quando la mia città si è trovata nei guai, ho capito che era l'occasione giusta per mostrare a tutti la mia genialità. Trasmutazione dell'acqua in cibo. Anche questo sembra un tentativo fallito, ma non è così. La macchina che potrebbe sconfiggere la fame nel mondo è volata in cielo, somiglia a un satellite e fa letteralmente piovere dal cielo ogni sorta di pietanza. Posso avere le calde? Carne! Vado pazza per la gelatina! L'ingordigia dei concittadini di Flint fa però andare in tilt il macchinario. Piovono sì polpette, ma sono giganti. Spaghetti e hot dog minacciano il mondo intero e sarà l'inventore, insieme all'amata Sam, una giovane promessa delle previsioni meteo, a salvare l'umanità dall'eccesso di cibo. Figlio, giurami che hai tutto sotto controllo e che non succederà il finimondo. Ho tutto sotto controllo e non succederà il finimondo! Sta per schiacciarvi una pannocchia gigante. Ispirato al libro illustrato per bambini Cloudy with the Chance of Meatballs, nuvoloso con possibili precipitazioni di polpette, il film è scritto e diretto da due esordienti sul grande schermo, Phil Lord e Chris Miller. La trama del libro è ovviamente la prima ispirazione, ma si va oltre. La pellicola è una dichiarata parodia del genere catastrofico. Armageddon, twister e simili, con tornado di spaghetti e tentativo di salvataggio della popolazione con barche costruite su sandwich giganti. When you're near, the rain goes, disappears, dear, and I feel so fine. L'ironia però colpisce anche il junk food, che crea obesità e rifiuti, e molte figure della società americana, la meteorologa televisiva, il sindaco opportunista e il medico immigrato costretto a fare il cameraman. Il tutto in uno stile di animazione minimalista, ispirato a quello anni 50 della United Pictures Artist, che permette di creare personaggi accattivanti, la scimmietta e il padre dell'inventore su tutti, e stupefacenti strutture di cibo, dal castello di gelatina alla nevicata di gelato. Immagini ideali da presentare in 3D. È bello, cioè il 3D ti viene addosso. Fa vedere come un'invenzione alla fine può diventare anche sbagliata. Perché è proprio leggerino, fa ridere, divertente, passa bene. Piovevano del mangiare dal cielo ed era divertente. Mi è piaciuto anche perché lui, che non è mai riuscito a far niente, è riuscito per una volta a fare una cosa che poi è riuscito anche a sistemare. In 3D è molto più divertente. Ti vedi arrivare questo cibo addosso, te lo vedi così vicino. Ti piacerebbe che il cibo piovesse? Sì, la pizza. Abbiamo chiuso con le novità al cinema in questo fine settimana. 4 nuovi film nelle sale italiane. Linea adesso alla regia. Fra poco torniamo insieme. E prima di vedere le novità americane con Iron Man 2, quindi restate con noi perché c'è qualcosa da scoprire. Abbiamo un'intervista molto interessante sulla pirateria. State attenti anche voi che per caso nel vostro segreto scaricate illegalmente i film. Perché Matteo Brega, il professor Matteo Brega, vi racconterà quali danni e quanto costano combinate al vostro computer. Fra poco. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, siamo arrivati alla terza parte del nostro programma, che chiamiamo Magazine proprio perché ospita un po' tutto quello che ruota attorno al mondo del cinema e che non riguarda strettamente i film da vedere nelle sale cinematografiche italiane. Oggi siamo proprio contenti di avere realizzato un'intervista che apre nuove prospettive su un fenomeno del quale questa trasmissione, insomma, bene o male da 10 anni è avversaria, che è il fenomeno dello scaricamento illegale di film, senza bacchettonismi eccessivi, senza, diciamo, rigori morali o chissà che cosa, ma anche semplicemente per un fatto: i film si vedono al cinema, i film nascono per essere visti al cinema si godono e si fruiscono nel migliore dei modi possibili, forse anche nell'unico dei modi possibili, davvero, per chiamarlo film, per chiamarlo spettacolo. E questo noi lo abbiamo detto e lo diciamo molto molto convinti, sposando una causa che è quella appunto dell'antipirateria. Al di là poi, ripeto, dei danni che oggettivamente qualcuno riporta in questo, ma il danno maggiore a mio modo di vedere è quello che riporta lo spettatore, che vede un film male, sentendolo male, piccolo così, e oltretutto con dietro un giro che sicuramente non è dei più leciti e legali del mondo. Di questo aspetto ovviamente, come avrete visto andando al cinema, si occupano le istituzioni preposte In questo caso, sempre puntando sulla colpevolizzazione, se scarichi un film è come se rubassi una borsetta, è come se rubassi un'auto, insomma, lo spot l'avete visto tutti voi. E l'efficacia di questo spot è fortemente in dubbio, anzi direi che ormai è decisamente finita. Allora, cosa ha fatto Lumivideo, che è l'associazione degli editori di home video in Italia? Ha dato da fare una ricerca, commissionato una ricerca allo IULM, all'Università IULM di Milano, condotta dal professor Matteo Brega, responsabile dell'osservatorio sull'immaginario appunto dello IULM, cercando di capire, di guardare dall'altra parte, cioè di guardare quali danni fa a se stesso economicamente anche lo scaricatore, il downloader, che spesso non è un gran professionista. Adesso lo sentiremo Matteo Brega in collegamento con noi, e che spesso combina al computer cose che poi costa molto riparare, e quel costo è un costo che, tutto sommato, se andavamo a noleggiare i DVD o andavamo al cinema qualche volta in più, tutto sommato ci stavamo dentro. Dico due dati veloci sulla ricerca. Per esempio, un primo dato importante è che per il 79,8% degli italiani, cioè l'80% degli italiani fra i 15 e i 50 anni, ebbene, questa percentuale si ritiene piuttosto abile nell'uso del PC. Per le donne la percentuale sale addirittura all'81,8%, e poi andremo a sentire da Brega che le cose non stanno veramente così. E ancora, fra i 15 e i 50 anni quasi uno su due reperisce materiali audiovisivi in rete. E ancora, sul downloading illegale, il 95% di chi scarica personalmente dalla rete sembra consapevole dei rischi legati al downloading illegale, ma in realtà solo il 73% se ne preoccupa effettivamente, pensando che in fondo a me non succederà. Ecco, questa è un po' la fotografia, l'identikit del downloader italiano, un po' di tutte le età, ma i danni sul computer ci sono. E cosa ha fatto la ricerca, cosa ha fatto lo staff coordinato dal professor Brega? È andato a chiederlo ai riparatori di computer, è andato dai riparatori di computer e ha detto: ma voi, quando ricevete i computer impallati, come si suol dire, che non funzionano più, che cosa ci trovate? Quali guasti, quali danni, quali economie vengono messe in campo, ma soprattutto quali sono i motivi? E le sorprese sono state davvero interessanti, addirittura divertenti, proverei a dire. Vero, professor Brega? È proprio quello che abbiamo fatto, nel senso che una parte della ricerca condotta da Euromedia Research ha proprio preso in considerazione i centri di assistenza, i quali hanno stilato un catalogo delle 10 principali cause di danni o di problematiche inerenti ai personal computer, all'interno delle quali le prime 6 sono derivate da o installazione di software scaricati illecitamente oppure da un downloading intensivo. Noi abbiamo fatto una targettizzazione classica per fasce di età. Pensavamo di trovarci di fronte a dei giovani molto motivati e via via che l'età si alzava, delle persone sempre meno, come dire, propense a questo tipo di comportamento. In realtà dobbiamo dire che tutte le fasce d'età sono rappresentate. È un comportamento ormai quasi completamente spalmato su tutti quelli che sono gli utenti di personal computer, e in più abbiamo avuto anche questa interessante sorpresa delle mamme downloaders, cioè quelle che su richiesta dei bambini si accostano al downloading, a volte illecito, per procurarsi i film chiesti appunto dai figli. E queste sono le più pericolose, diciamo, per loro stesse, perché sono quelle che meno delle altre persone sanno comportarsi in caso di probabili minacce, che sono sempre più subdole. Brega, le faccio un'ultima domanda, sì. Che è anche più una valutazione, voglio dire, probabilmente non è una cosa che avete considerato nella ricerca, però insomma io da anni ritengo che, così, in una maniera del tutto sensoriale, cioè senza appoggiarmi su alcuna così verifica scientifica, però ritengo che ancora uno dei pochi aspetti con i quali non si è ancora approcciato il tema dello scaricamento e della pirateria sia la promozione culturale nei giovanissimi, parlo anche di scuole elementari, della sala cinematografica, cioè la sala come tempio dove vedere e vivere l'esperienza del cinema irripetibile in qualsiasi scaricamento, un video, eccetera, eccetera. Ecco, quanto si può lavorare ancora su questo aspetto culturale? Ah, guardi, da questo punto di vista diciamo che tocca proprio il mio ambito di studio privilegiato, perché io sono appartengo alla disciplina di estetica e mi occupo delle forme di fruizione estetica nel mondo contemporaneo. Sicuramente iniziative che vanno a rafforzare anche nei bambini la consapevolezza e la ricchezza di una fruizione, come definirla, composita, ricca e adeguata di quelle che sono le modalità del cinema, sicuramente può essere uno dei canali culturali fondamentali per andare contro a questo fenomeno del downloading. Un'altra strada interessante può essere quella francese, però declinata all'italiana, e cioè mi riferisco alla politica degli avvisi. In Francia è passata una legge che avvisa per 3 volte coloro che praticano downloading illegale prima di staccargli la linea, fondamentalmente. A mio parere è una politica vincente, primo perché non va nella direzione della punizione penale, in secondo luogo perché è stato dimostrato che già al primo avviso il downloader si sente come smascherato, un po' così, messo sotto in una condizione di piccola vergogna, e quindi nella quasi totalità dei casi smette immediatamente di tenere questo tipo di comportamento. Il professor Matteo Brega, quindi, qui alla Rosa Purpurea, un ospite veramente gradito che ascolteremo ancora in futuro a raccontarci un po' questi retroscena di tutto quel che ruota intorno alla questione fruizione del cinema, che è poi il tema che ci sta a cuore, la fruizione del cinema. A questo punto noi però giochiamo con la seconda traccia del film misterioso di oggi, ascoltiamola insieme. Vi rendete conto che è inammissibile? È interessante. Cosa? Lo so che fate il vostro lavoro, ma non potevate venire un pelo prima? Sono 6 mesi che sto qui, mangiando proteine sintetiche, mai un pasto decente. Proteine sintetiche, mai un pasto decente. Chissà dove si consumano, la Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete indovinato, più tardi. L'ultima possibilità. E apriamo ora la nostra finestra sui film d'oltreoceano. L'avrete capito, siamo arrivati all'appuntamento con Trailer USA, dove oggi parliamo di un sequel molto atteso. Abbiamo sentito poco fa Robert Downey Jr., protagonista di Sherlock Holmes, ma Robert Downey Jr. sarà anche nuovamente nei panni dell'uomo d'acciaio Iron Man per Iron Man 2. Nel cast, come nel primo episodio, ci sarà ancora Gwyneth Paltrow, ci sarà Samuel Jackson, ma ci saranno anche delle new entry, come per esempio Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Don Cheadle, ma soprattutto Mickey Rourke. Dagli Stati Uniti vi svegliamo il primissimo trailer, sono 2 minuti e 26 secondi, soprattutto di suoni più che di parole, per prendere confidenza con i personaggi del secondo film dedicato ad Iron Man. Siamo già in collegamento con la nostra Michela Bellisario. Ciao Michela, allora ci anticipi già qualcosa? Sì, ciao Franco. Beh, come dicevi, la novità del sequel è la presenza nel cast di Mickey Rourke. Il suo ruolo è abbastanza importante nel film perché rappresenta il nuovo nemico di Iron Man, ovvero Whiplash. Il film parte dal successo ottenuto dal miliardario Tony Stark, ovvero da Iron Man, che si gode il successo dell'eroe tra copertine di giornali, programmi televisivi. E ormai è diventato per la società un eroe ribelle singolare, sì, con problemi di alcol, ma che comunque riesce a salvare il mondo, come si sente in questo passo del trailer davanti al Congresso americano. Please. Yes, dear. Can I have your attention? Absolutely. Our priority here is to have you turn over the Iron Man weapon to the American people. Well, you can forget it. We're safe. America is secure. You want my property? You can't have it. But I did you a big favor. I have successfully privatized world peace. Ecco, come dicevo poco fa, Iron Man ha un nuovo nemico che si chiama Whiplash, che sicuramente gli affezionati del fumetto conoscono, e le scene di combattimento sono assolutamente spettacolari. Tra l'altro Mickey Rourke è assolutamente credibile in questo ruolo di nemico, ma prima di incontrare Whiplash, Iron Man si deve incontrare anche con War Machine, che è il suo nemico storico. E allora questi suoni, come abbiamo detto, di Iron Man 2. Grazie Michela Bellisario. Ciao Franco, alla prossima settimana e come sempre un saluto ai nostri ascoltatori. E a questo punto noi andiamo a sentire nuovamente come vanno le cose sulle strade d'Italia per tornare fra poco alla Rosa Purpurea e aprire il grande capitolo dedicato all'home cinema, al cinema da consumare in casa, con tutte le novità in DVD e i consigli per recuperare i grandi film in televisione. Restate con noi. La Rosa Purpurea. Ed eccoci alla quarta parte della Rosa Purpurea, nuovo cinema casa mia. Andiamo a vedere che cosa ci aspetta, il calduccio del... del divano e del salotto, visto che in giro, insomma, la neve impera, e soprattutto se e quando, dopo che sarete andati al cinema a Natale, a Santo Stefano e negli altri giorni, insomma, se vi avanza ancora un po' di tempo e volete vedervi un bel film in casa, ci sono come sempre i nostri consigli in televisione e in home video. Partiamo dalla TV con i nostri minuti di recupero con i nostri amici del settimanale Film TV. Claudio Bartolini è già in collegamento con noi. Claudio, questa volta un film veramente epocale di un regista che mi sta molto a cuore, anche se non è stato sempre fortunato nei suoi film, come Michael Cimino. Claudio. Ciao Franco, ciao a tutti. Oggi parleremo dei Cancelli del Cielo, che andrà in onda lunedì 28 dicembre alle 21.10 sulla 7. Ecco, i Cancelli del Cielo, oltre a essere un grandissimo film, è anche un caso produttivo singolare, perché segnò il fallimento della United Artists, che fu la compagnia di produzione che appunto finanziò quest'opera magniloquente di Michael Cimino, forse fin troppo pretenziosa nell'utilizzo dispendioso appunto di una troupe, un cast veramente sterminati e di location magniloquenti. Ecco, Cimino in questo film ritrae l'America del Wyoming durante la guerra di secessione con una crudeltà visiva e soprattutto tematica che trova precedenti soltanto nel suo capolavoro Il Cacciatore con Robert De Niro e Christopher Walken, che lo precedeva di pochi anni. Ecco, Il Cacciatore e I Cancelli del Cielo rimangono le due perle dell'autore, di Michael Cimino, prima appunto del fallimento della compagnia americana, che segnò l'emarginazione del regista dal cinema mainstream e dal cosiddetto star system. Ecco, questa è un'occasione per recuperare un film altrimenti poco visibile, poiché in TV passa di rado, e quindi fondamentalmente un'occasione da non perdere. E grazie allora a Claudio Bartolini per questo consiglio. I Cancelli del Cielo di Michael Cimino, è proprio vero, un film che non si vede molto molto spesso. Allora segnatevi lunedì 28 dicembre sulla 7 alle 21.10. E adesso andiamo in area DVD, tornando a giocare insieme con la terza traccia del film misterioso di oggi. Cambiare la storia, questo è imbrogliare. Un trucco che ho imparato da un vecchio amico. Breve ma intenso, potremmo dire, anche con la musica. Abbiamo detto grande famiglia cinematografica, una vera e propria saga, un film però molto recente. Avete sentito prima, si mangiavano cose un po' sintetiche, chissà che cos'è. La Rosa Purpurea, chiocciola, radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta. No, a questo punto facciamo il consueto saltino indietro di 7 giorni. Andiamo a sentire una delle tracce del DVD Game della scorsa settimana. Mentire è come essere alcolizzati, cerchi sempre di smettere, ma... Allora è così? Mentivi? Questa era una parte del problema. E si trattava di Sesso, bugie e videotape. Era il film misterioso della scorsa settimana. È stato un film che, nonostante sia un film di grande successo, assolutamente presente nell'immaginario collettivo, però non era facile indovinare da quelle frasi. Forse è un film che conosciamo più nel suo insieme che non nei suoi singoli dialoghi. Comunque, ce l'hanno fatta Massimiliano Bacchi di Forlì e Giuliano Cavaliere di Ciampino. Bravi a tutti e due, che riceveranno a casa appunto il DVD di Sesso, bugie e videotape, del quale chiediamo di renderci edotti Claudio Pofi, che è in collegamento con noi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, il Blu-ray di Sony ripropone il film di Soderbergh dell'89, questa acida commedia da camera sulla coppia con l'elemento audiovisivo a metterla a nudo. Arriva appunto questo Blu-ray sicuramente superiore al DVD, le immagini però palesano molta grana, ed è questo probabilmente da ricondursi alla cifra stilistica dell'opera, molto molto buona anche la qualità audio. Tra gli extra, che sono veramente numerosi, segnalo sicuramente il commento del regista Steven Soderbergh assieme al cineasta Neil LaBute per tutta la durata del film, e tra gli altri anche molto interessante l'incontro tra il cast e il regista al Sundance Film Festival a distanza di 20 anni dalla produzione. E questo quindi per quanto riguarda Sesso, bugie e videotape. Noi adesso andiamo invece ad affrontare le recensioni, le novità in videoteca, cominciando con un film di grande divertimento, di grande entertainment, diciamo così. Si tratta di G.I. Joe. Ascoltiamo la clip. Mettiamocele tutte. Propulsori ad aria, pneumatici ad alta pressurizzazione, casco cibernetico con heads-up display avanzato collegato alla tuta. Voi lo pensate, lei lo fa. Diogene gemelle con propulsione a gas e razzi termosensibili, spara e scorda con triplo esplosivo. E il mio preferito, un mitra Gatling da 10 mm senza rivestimento, capace di sparare 50 colpi al secondo. Potenza di fuoco autosufficiente, perfetto per due cowboy come voi. Grazie alle nanotecnologie, la multinazionale Mars diventa sempre più potente, giocando sporco, vendendo armi e fornendo al tempo stesso gli strumenti di difesa e mantenendo di fatto il totale controllo del mercato mondiale. Gli unici in grado di contrastare la bramosia di potere della Mars e a impedire ricatti ai governi del mondo sono i G.I. Joe, sono soldati con addestramento superiore, dotati di sistemi avanzati di difesa e attacco, pronti a tutto. Dopo i Transformers, la Hasbro rilancia sul piatto della settima arte, un'icona degli anni 60, divenuta serie animata negli 80, azione a tutto campo, armi che sembrano gadget, stile ironico, divertente ma anche compiaciuto. Il film arriva in DVD ma soprattutto in Blu-ray, entrambe le edizioni sono eccellenti. Segnalo purtroppo per il Blu-ray la traccia Dolby Digital in italiano, che non può sicuramente competere con la DTS ad alta risoluzione in inglese. Gli extra sono discreti, segnalo soprattutto il commento del regista e del produttore. E questo per quel che concerne G.I. Joe. Andiamo avanti con un horror che è stato portato nelle sale cinematografiche italiane nel corso della scorsa stagione cinematografica, una sorta di variazione sul tema dell'eterno tema dell'horror, della casa maledetta, che insomma è stata alla base di decine e decine di film. Questa volta è una famiglia che viene costretta, diciamo, dalle circostanze a trasferirsi in una nuova abitazione che insomma, si scoprirà non essere proprio il massimo dell'abitabilità. Il film si intitola The Haunting in Connecticut, in Italia è uscito con il titolo di Il Messaggero. Ascoltiamo la clip. Francamente non so perché sia capitato a noi. Noi siamo una famiglia normale come molte altre. I medici non credevano che ce l'avrebbe fatta. E chiunque abbia un figlio malato sa cosa si prova quando senti che lo stai perdendo, che ti sta sfuggendo dalle braccia e che qualcosa dall'altra parte lo sta tirando a sé. In quella casa stava succedendo questo. È il 1987 quando il giovane Matt Campbell combatte contro il cancro e la famiglia, per ridurre la distanza con l'ospedale, trasloca presso questa grande casa vittoriana ancora in buono stato, un tempo adibita a camera mortuaria. Già a partire dalla prima notte Matt avverte delle presenze, specie nel seminterrato all'interno del quale transitavano i defunti. Il ritrovamento di inquietanti fotografie e misteriosi suoni all'interno della casa porteranno i Campbell a scoprire che in quello stesso luogo venivano condotte sedute spiritiche con l'aiuto di un medium capace di mettere in contatto il mondo degli spiriti con quello dei vivi. L'horror è intenso, grafico per amanti delle sue emozioni forti, da un regista esordiente, una sceneggiatura che sicuramente riserva numerosi colpi di scena, tra l'altro basata su eventi paranormali realmente accaduti tra gli anni 70 e 80. Dalla Key Red arriva sia il DVD che il Blu-ray, segnalo sicuramente il Blu-ray per l'ottima qualità. C'è anche qui un po' di grana da ricondursi alla cinematografia, notevole la qualità delle tracce audio, specie quella ad alta risoluzione in italiano, pochi ma interessanti gli extra. Unico neo, il formato video per il Blu-ray e per il DVD diversi rispetto all'originale, con il risultato di maggiori limitazioni rispetto al volume di informazioni ai lati dell'immagine. E questo era Il Messaggero di Haunting in Connecticut. Ancora un titolo, anche questa settimana vogliamo darvi un suggerimento in più, perché di disgrazie sociali insomma si parla anche, e queste sono disgrazie generali che nascono da grandi cataclismi. Come sfondo, almeno si parla, dicevo, in Streets of Blood, storia che viene ambientata nei giorni del terribile uragano Katrina a New Orleans. Ascoltiamo la clip. Credo che un poliziotto di pattuglia si sia messo d'accordo con l'FBI per fare la spia sugli altri poliziotti. L'hanno detto loro, vero? Volevano vedere come mi sarei comportato. Ad ogni modo, se c'è una spia nella squadra e si aspetta che sia io a trovarla, è un lavoro che non mi riguarda. No, ma tu li conosci molto bene. Il mio compito è solo quello di valutare il loro stato mentale. A New Orleans, il partner del poliziotto Andy Devereaux viene trovato morto in circostanze misteriose durante l'uragano Katrina. Affiancato da un nuovo collega, Andy ha sempre meno dubbi sull'ipotesi di omicidio, incapace di tirarsi indietro anche quando attorno a sé non c'è altro che corruzione e la lotta per il predominio dello spaccio di droga all'interno della metropoli. Il film segna l'incontro sul set di Val Kilmer con Sharon Stone assieme al rapper nero 50 Cent, qui nel ruolo di un poliziotto in difficoltà economiche. Cast e location convincenti, un po' meno la sceneggiatura che non sempre trova il ritmo giusto. Streets of Blood arriva da Mondo Home Entertainment sia in DVD che in Blu-ray, entrambi di qualità molto buona. Qualche problema di contrasto per il DVD nei momenti più bui tra le tracce audio, segnalo la DTS in italiano sempre per il DVD molto dinamica. Purtroppo non ci sono extra, il consiglio è sicuramente la visione Blu-ray alta definizione. E questo era quindi Streets of Blood. Noi salutiamo Claudio Poffi. Claudio, appuntamento alla prossima settimana e precisamente al giorno di Capodanno. Adesso poi daremo l'appuntamento anche ai nostri ascoltatori, perché staremo ancora insieme un po' per cominciare a tracciare le linee del 2010 del non video. Però se vuoi magari cominciare ad anticiparci giusto qualcosa, hai già un'idea di che anno potrà essere il 2010 per non video? Ma il 2010 per non video sarà sicuramente un anno ancora più fruttifero per quello che riguarda il Blu-ray e l'alta definizione. Sicuramente il 2009 ha segnato un passo avanti sia da parte delle aziende che hanno prodotto un massiccio volume di titoli, sia da parte degli appassionati, dell'utente finale, che in qualche modo si è accorto maggiormente della presenza del Blu-ray, dell'alta definizione, e quindi di una maggiore qualità disponibile a prezzi che speriamo per il 2010 potranno essere maggiormente calmierati e comunque più interessanti, soprattutto per chi approccia l'home video e l'alta definizione e l'altissima qualità proprio in questo periodo. Hai toccato un tasto importante, Claudio, perché sa, la questione del prezzo potrebbe essere poi decisiva. Insomma, poi adesso vedremo anche quando ci saranno i dati come sarà andato questo Natale per quanto riguarda le vendite di apparecchi Blu-ray. Grazie ancora a Claudio Poffi, appuntamento a Capodanno a te e a tutti gli ascoltatori. Noi chiudiamo qui anche la nostra trasmissione, la nostra Rosa Purpurea, che torna appunto il giorno di Capodanno alle 18 con mezz'ora speciale per presentare i film più attesi di questo inizio 2010. Poi, come sempre, il sabato alle 18 e la domenica alle 9 del mattino in replica per raccontarvi tutte le novità al cinema. Grazie per averci seguito. Un saluto da Franco D'Assisti.